quando sarò vecchio, sarò vecchio, nessuno dovrà più venirmi a rompere i coglioni. Quello che avrò fatto, lo avrò fatto, vorrò soltanto stare a ricordare i giorni buoni. Direi che 82 anni è già passato, non è proprio, non si può considerare giovane e anziana. Starò vecchio a ricordare che non ho ringraziato mai a sufficienza. Vorrei citare, se è lecito, interesse privato in atto pubblico, vorrei citare il caso di mia madre, che è l'amministratrice del gruppo WhatsApp della nostra famiglia. E l'età è più o meno quella, insomma, quindi. Quando sarò vecchio di quelli che nessuno vuole avere intorno. Io sono rimasta al BlackBerry, non le dico l'avvento dello smartphone nella vita di Nicoletta, che è tutto un programma in questi giorni. Mi rispetteranno come si rispetta il tempo. Sì, quindi i vetri li lasciamo lavare a voi. Esattamente. Mi sembra che sia. Anche Marti si rompa la cuffia. Pazienza. Sarà il mio sguardo chi c'ha ancora fame. Buongiorno, lei lava i vetri, Paolo? No, non lavo i vetri. Come no? Quando sarò vecchio, punto e basta, la vita che finisce mostrerà il suo culo. Con la mia pensione di soldato si sarà consumato tutto il mio futuro. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sai la forza che ha un sorriso. Tu sorridi. Deborah, non potevamo non iniziare la nostra trasmissione di oggi con la forza del sorriso che Andrea Bocelli ha dedicato all'Expo. Abbiamo avuto una buona idea. Altro che. Chissà cosa dice Paolo, che già ci scrive. Come fa tutti i giorni ad inizio trasmissione, diciamo subito come ci appella. Le oche giulive, grazie esatto. Paolo, venga a trovarci. Nel nostro pollaio, ottimo. Comunque a un mese esatto dall'inizio di Expo, oggi naturalmente dedichiamo la nostra puntata alla nutrizione. Esattamente, allora intanto possiamo anche chiedere ai nostri ascoltatori se magari non stanno a Milano e se sono in altre zone d'Italia, se hanno intenzione nei prossimi mesi di venire a fare una capatina per vedere un po' tutti questi padiglioni, come si trasforma questa città, che cosa verrà presentato. Noi invece oggi faremo una cosa diversa, faremo un vero e proprio viaggio nelle tribù alimentari fra etica e dietetica. Perché? Perché sono sempre di più le persone che si mettono alla ricerca del modello alimentare virtuoso, che volenti o nolenti si trovano ad appartenere ad uno di questi gruppi. Noi poi li definiremo un po' per capire se ci siamo anche noi dentro una di queste. Intanto state molto attenti e cerchiamo oggi di capire a quale tribù alimentare apparteniamo, ma non ci fermeremo qui, cercheremo anche di capire il rapporto che abbiamo con il cibo è nutrimento, lo sappiamo, ma non solo, e nell'ultima parte della trasmissione apriremo naturalmente di nuovo i nostri microfoni a tutti coloro che hanno o desiderano modificare un po' la loro alimentazione e hanno bisogno di consigli. Ci raggiungerà il dottor Filippo Ongaro. Allora, per quello che riguarda invece la prima parte, quella legata alle tribù alimentari, fra un po' vi presento l'ospite che ci accompagnerà in questo viaggio, che ce le elencherà possibilmente, tanto per capire se appunto ognuno di noi si ritrova in ognuna di queste. Noi siamo della tribù delle colazioni abbondanti, vero Nicoletta? Sì. Chissà se c'è la tribù di quelli che al mattino mangiano abbondantemente per lanciare dei messaggi al metabolismo, per dirgli guarda che è ora che tu ti dia una siamo mossa, siamo pronti a partire e la giornata davanti è lunga, noi ne abbiamo bisogno perché siamo quelle che si alzano molto presto, per all'odole. Cui dobbiamo dare una bella sveglia al nostro metabolismo. No che all'odole, Paolo. Io ho un mio personale concetto di dieta, evito rigorosamente tutti i cibi che non mi piacciono. Milan Kundera. Che se consideriamo anche questa come una dieta, possiamo dire davvero che ognuno ha la sua, ognuno di noi più o meno consapevolmente compie delle scelte alimentari e non sono sempre solo esclusivamente basate sul portafoglio, non solo rapportate alla spesa che ognuno deve mettere a disposizione appunto di queste. Per alcune queste scelte alimentari sono obbligate, per altre sono lasciate al caso, ma anche questa, volendo, è una scelta. In ogni caso, il modo in cui mangiamo e le cose che scegliamo di mangiare dicono molto di noi. I cittadini globali si dividono in tribù alimentari. Ciascuna si identifica nelle sue passioni e ossessioni, totem e tabù. Tofu contro carne, soia contro uova, quinoa contro grano, crudo contro cotto. Insomma, se il cibo è il pensiero dominante del nostro tempo, la dieta ha smesso di essere una misura di benessere per diventare una condizione dell'essere. E queste sono proprio parole del nostro primo ospite di oggi. Io ringrazio e saluto il professor Marino Niola, antropologo della contemporaneità, insegna all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove dirige il MedEat Research, il centro di ricerche sociali sulla dieta mediterranea, editorialista della Repubblica. Oggi peraltro scrive anche un pezzo che poi vi racconto, ha scritto tantissimi libri, l'ultimo è Homo Dieteticus, viaggio nelle tribù alimentari, edito dal Mulino, è in libreria dallo scorso 5 febbraio e proprio da quest'ultimo lavoro abbiamo tratto il brano che avete appena sentito. Fatto un buon biglietto da visita, professor Niola, buongiorno. Buongiorno, un biglietto da visita perfetto. Ottimo. Avrei voluto firmarlo io. Ho fatto una piccola sintesi di un curriculum che è piuttosto articolato, lungo, insomma, è ben composto. Professor Niola, allora, questo libro, con un taglio molto originale, indaga nel rapporto fra cibo e salute. Oggi non siamo più quello che mangiamo, ma quello che non mangiamo, e quindi direi che la prima cosa che dobbiamo fare, grazie al suo aiuto, è quello di dare una definizione, identificare questo Homo Dieteticus, che da quello che capisco leggendo il suo libro è la naturale prosecuzione dell'Homo Economicus. È così, ho capito bene? Sì, è un'evoluzione o una involuzione, se vogliamo, dell'Homo Economicus. Entrambi, Economicus o Dieteticus, sono delle astrazioni, però sono delle astrazioni che ci prendono, che riassumono in una frase lo spirito di un'epoca. Quando l'idea dell'Homo Economicus nasce nell'Ottocento con Stuart Mill, in un momento in cui il mondo, l'Occidente soprattutto, ha una grande fiducia nel futuro, ha fede nel progresso, non ha paura, mentre l'Homo Dieteticus è proprio quello che viene dopo, e l'Homo Economicus spaventato da tutto, dall'ambiente, dall'economia, e quindi la paura, l'insicurezza lo portano a investire tutto sul suo corpo, il corpo diventa il suo capitale immunitario, e l'Homo Dieteticus è l'uomo che ha fatto della salute l'ultimo bene rifugio, proprio nel senso del rifugio anti qualcosa, no? Le grandi paure producono sempre i rifugi. Altro che, guardi, lo sappiamo quando parliamo per esempio dei nostri investimenti, professor Niola, effettivamente abbiamo visto in questi ultimi anni come anche i risparmiatori abbiano, come si fa tradizionalmente, ricercato i beni rifugio, è successo in certi momenti con loro, i titoli di Stato che hanno un po' però deluso le aspettative, però effettivamente succede sempre così nei momenti di difficoltà, si cerca il rifugio, in questo momento lo è diventato, quindi lei dice, il nostro corpo. Bene rifugio, e la longevità è diventato il succedaneo laico dell'immortalità. Diciamo che il giudizio universale è qui e ora, non è più nell'altra vita, alla fine dei tempi, ma è tutto qui e subito. E quindi noi cerchiamo ossessivamente quello che ci fa bene, o meglio quello che non ci fa male, demonizziamo i cibi, naturalmente, proprio per questo è curioso, in una società laica, sempre più secolarizzata, che ha congedato il diavolo, il demonio, però rimane la demonizzazione come un meccanismo che gira su se stesso e che quindi non ha più per oggetto l'anima, la nostra anima, non è più quella la posta, ma invece è la salute del corpo. Abbiamo fatto cortocircuitare la salute e la salvezza. Ci sarà però anche qualche lato positivo di questa medaglia, professor Niola, adesso lei ce lo indicherà, però insomma, tra le tribù che definiamo un po' più spesso, Nicoletta, anche attraverso le nostre trasmissioni, riconosciamo certamente quelle dei crudisti, i sushisti, esatto, vegetariani e vegani. Certamente. Che non sono la stessa cosa. Assolutamente no. Ci sono i gluten free. Ci sono anche i flextariani, che sono, professor Gnole, corretto? Ci sono coloro che iniziano a ridurre progressivamente il consumo, sì, di proteine animali nella loro dieta. Sì. Per, sì, no, spostarsi verso un stile alimentare vegetariano, che è, certo, quello qualcuno comunque... li chiama anche reducetariani. Reducetariani. Sì, perché riducono. Ecco, questo è molto interessante. Insomma, la dieta, come diceva lei, professor Gnola, anche nel suo libro, alla fine diventa non più una misura del benessere, ma una condizione dell'essere, ma soprattutto ci si ritrova a sostenere un'alimentazione in sottrazione. Questo è un concetto che ci piace molto, al quale arriveremo tra poco, ma in realtà quello che io voglio fare prima di andare a spiegare questi concetti riportati nel suo libro è invitare i nostri ascoltatori a fare una riflessione sul fatto di essere o meno appartenenti ad una tribù alimentare, che sono praticamente quei gruppi che in qualche maniera radunano persone che hanno una stessa vocazione, se vogliamo, sì, anche una stessa passione o anche ossessione qualche volta, poi vedremo se c'è questo risvolto negativo anche di questo ragionamento. Alla fine, professor Gnola, non siamo più noi a fare la dieta, ma sono le diete a fare noi. Quali sono le tribù più significative, oltre quelle che abbiamo elencato poco fa con Nicoletta? Così vediamo anche se riusciamo a far identificare in una di queste anche i nostri ascoltatori. Ce ne vuole elencare lei? Sicuramente le più significative sono quelle che voi avete già elencato, però ci sono per esempio i carnivori, oppure i paleodietisti, quelli che sostengono che bisognerebbe alimentarsi come facevano i nostri progenitori preistorici, e quindi che erano cacciatori e raccoglitori, quindi dovremmo fare una specie di salto indietro nell'evoluzione e tornare e metterci a raccogliere semi e bacche. Sì, semi e bacche, riuscire a cacciare qualche animale, dimenticando però una cosa, che di solito gli adepti di questa paleodieta dimenticano che nell'epoca in cui vorrebbero farci tornare l'aspettativa di vita era inferiore ai 30 anni, quindi anche queste sono cose di cui noi dovremmo tenere presente, certo, quando vagheggiamo questa specie di preistorie, di parchi giurassici alimentari o queste arcadie alimentari che spesso sanno tanto di agriturismo. E allora, non sono reali, sono, certo, delle utopie sulle quali noi proiettiamo anche le nostre inquietudini di ora, le nostre aspettative, come diceva lei, le nostre passioni e le nostre ossessioni, che spesso sono più delle passioni. Auspicando naturalmente che gran parte dei nostri ascoltatori appartengano alle tribù dell'equilibrio, però insomma ognuno ha il suo, e anche questo, certo, è naturalmente una considerazione da fare. Lanciamo come sempre il nostro numero verde 800 24 00 24. Che tipo di riflessione ha suscitato in voi queste considerazioni che abbiamo fatto questa mattina? A quale tribù alimentare ritenete di appartenere? E nello stesso tempo vi invitiamo a chiamare se avete tolto qualche alimento dalla vostra dieta, lo avete fatto per una serie di motivi, chiamateci, perché nell'ultima parte della trasmissione commenteremo le nostre scelte alimentari insieme al dottor Ongaro, e a partire dalle 11:30 andiamo a spiegare e a proprio descrivere bene il rapporto che ciascuno di noi ha con il cibo. Il cibo, lo sappiamo, non è solo nutrimento, è anche gratificazione, piacere, a volte ossessione. Ne parleremo col dottor Aquilar tra poco. Nel corso degli ultimi 15 giorni sono stato a dieta. Quanto ho perso? 15 giorni. Mark Twain. Adesso chiaramente per certi aspetti stiamo estremizzando delle tendenze che sono comunque evidenti, ma è certamente vero che molte problematiche di salute storicamente recenti, mi insegna anche un po' Nicoletta, insomma in questo anno e mezzo di Cuore e Denari Anche io ti ho fatto ridurre molto messaggi. No, non mi hai fatto ridurre, no, perché sennò mi sento un po' in colpa. Il professor Gnola mi... Ho riorganizzato secondo dei principi di qualità, secondo me, insomma, e di benessere. In ogni caso, le problematiche di salute legate al cibo, dicevo, certamente, forse perché magari si diagnosticano un po' più frequentemente rispetto al passato, ma ci sono più intolleranze, forse infiammazioni, allergie, con il paradosso che in un contesto dove domina l'abbondanza di cibo, che non ha precedenti nella storia dell'uomo, ci si ritrova, come dicevo prima, con un'alimentazione in sottrazione, quindi siamo tutti un po' intanto attenti a leggere le etichette quando facciamo la spesa, non andiamo al supermercato, e la prima cosa che guardiamo è se questa etichetta contiene o meno determinati alimenti, se questa etichetta sia piena o meno della confortante preposizione, come afferma il professor Gnola nel suo libro, senza uova, senza latte, senza conservanti, e spesso riduciamo la dieta a pochissimi nutrienti, provocando anche danni alla salute. Professor Gnola, come ci esplicita un po' meglio questo suo concetto, poi andremo alla lettura dei messaggi che in tanti sono davvero scrivendo. Tanti, sì. Tema e che... molto interessanti. Sì, infatti, professor Gnola. Ecco, perché il fatto è che per noi oggi il problema non è più l'abbondanza. Il problema vero, voglio dire, non è più la fame, scusi, ma è l'abbondanza. Per i nostri nonni, per i nostri genitori che avevano la guerra vicino, avevano ancora il ricordo della fame, dei patimenti. Il vero problema era come mangiare, come fare a mangiare, a mettere in tavola tre pasti al giorno, chi ci riusciva. Per noi è il contrario, il problema è diventato l'abbondanza, con tutto il senso di colpa che consegue da questa abbondanza. Ecco perché la nostra è un'alimentazione in levare, mentre quella dei nostri genitori era un'alimentazione ad aggiungere, in mettere. Basti pensare a come si mangiava negli anni del miracolo economico, tutti i cibi erano addizionati, no? Pastina glutinata, aggiunta di vitamine, di panna, di yogurt, di burro, tutto doveva essere abbondante, mentre noi chiediamo al cibo esattamente il contrario e quindi mangiamo a sottrarre, e quindi senza uova, senza glutine poi è diventato una bestia nera, e quindi senza conservanti, ma quella può essere una cosa giusta. Però il risultato è che per noi è più importante quello che non c'è rispetto a quello che c'è, certo, nel cibo. E questo, devo dire, comporta anche una grande differenza. L'alimentazione dei nostri genitori, quella che io chiamo del miracolo economico, per capirci, quella degli anni, l'Italia degli anni 50-60, che rinasceva dalla guerra e si buttava in avanti, no? Proprio faceva un grande balzo in avanti. Era l'alimentazione di una società che aveva fame di vita, sì. E quindi questi appetiti erano appetiti vitali, sì, che si manifestavano anche a tavola. I personaggi di allora erano, non so, Adi Ninchi, la Soralella e così via. Basti pensare alla commedia all'italiana, che poi ha celebrato l'epopea di questa Italia, mentre quelli appunto avevano fame di vita. Noi abbiamo paura della vita, e quindi questa paura della vita, il cibo diventa poi il simbolo, anche l'oggetto transizionale di questa paura della vita, diventa la nostra coperta di Linus, proiettiamo tutto su quello. Le leggiamo qualche messaggio, professor Gnola. Nicoletta, quale ti stuzzica di più stamattina? Luca ci dice che lui fortunatamente è onnivoro e per lui il cibo è uno dei maggiori piaceri, e ci scrive grazie al cielo, e ha ragione. Mentre Valeria ci scrive che quando nella pubblicità di un ristorante leggo a tavola come una volta, rispondo sempre speriamo di no, e questo si rifà un po' a quanto ci ha raccontato anche il professor Gnola. Si mangiava in modo diverso, ma l'allungamento della vita è anche prodotto, no, da uno stile alimentare che è più rispettoso della nostra salute. Ci sono ascoltatori che ci scrivono che cosa hanno tolto. I carboidrati vengono tolti da molti ascoltatori, proprio alcuni altri ci scrivono. Gianluca, che infatti lo scrive, lo fa per forma fisica, ha ridotto i carboidrati ma solo per forma fisica. Quanto alle tribù, non so se il professor Gnola l'ha descritta, la tribù a cui appartiene un nostro ascoltatore, che è un ghiotto di salumi, e quindi lui non riesce a così non evitare di mangiare affettati, salumi vari. Professor Gnola ha una preferenza molto specifica. Vabbè, quella è una passione sicuramente, e si può anche, e se penso a certi culatelli, non so, di polesine permense oppure di zibello, ma certi prosciutti, oddio, quelli è sempre più difficile da trovarli buoni e stagionati al punto giusto, però certi grandi salumi è una passione ampiamente condivisibile. Io stesso la condivido. Ma lei a che tribù appartiene, esatto, professor Gnola? Mi dica un po'. Io sono un onnivoro ben temperato, nel senso che mangio tutto, non c'è quasi nulla che non mi piaccia, non ho tabù. Forse solo quello delle minestrine, ecco, le minestrine, ecco. Proprio, non ha tolto nulla dalla sua dieta, è equilibrato, lascio volentieri, diciamo che ho le preferenze di Mafalda e soprattutto anche i tabù di Mafalda. E poi mi piace molto, per me mangiare è un grande piacere, è anche un grande strumento di condivisione, di scambio, di conoscenza. Faccio molti tour alimentari, vado spesso quando vado in un posto, la prima cosa che vado a vedere sono le specialità del luogo, non i monumenti. Professor Gnola, non si è mai messo a dieta lei? Ogni tanto, ma quando proprio sono costretto. Però cerco di non farlo, ovviamente, perché poi quando dopo 2 giorni di dieta, il primo giorno dico sto un po' meglio, il secondo giorno comincio a essere di cattivo umore. Ah, ecco, allora perché anche quello poi influisce, c'è anche probabilmente quella tribù lì, no? Quella a cui questa alimentazione della sottrazione provoca anche qualche sbalzo di umore. Allora, o sentiamo Lorenzo o andiamo a sentire i mercati. Qua abbiamo 2 opzioni sul tavolo. Un attimo Lorenzo, veloce, certo. E poi... Buongiorno Lorenzo, benvenuto. Buongiorno. Sì, eccoci. Ci dica. No, io penso che non si debba far parte di una tribù o meno, ma penso che il mangiare possibilmente bene, biologico, io per dire sono personalmente contro l'OGM, sia anche comunque un investimento in salute, no? Prima avete parlato di investimento in salute, forse se uno si ammala meno, forse certo. Prende meno in medicine e investe meglio nella sua vita, anche nella sua qualità, nella sua durata, o comunque nel suo modo di vivere, anche perché siccome il mangiare deve essere comunque un piacere, senza cercare di sottrarre ciò che oggi è possibile, visto che siamo anche una società molte volte dello spreco, quindi del buttare via, o comunque del mordi e fuggi, e quindi si divora che non gustare. Quindi credo che mangiare bene sia anche un investimento nel piacere e nella, certo, salute. Io non so se gusto e salute, esatto, non sappiamo. Ed equilibrio. Equilibrio, mm-hmm. Tribù degli equilibrati, Lorenzo. O degli equilibristi, vediamo, chissà. Vediamo invece se sono, come vanno i mercati. Vanno bene oggi. Cuore e denari. Non stanno in piedi, mi diceva così la mia nonna. Io da piccola ero inappetente, gracilina. Ecco, il problema è che però, non mi ha mai neanche sfiorato. Però dico, poi alla fine ho cambiato gusti, adesso mangio con grande gusto. Lei aveva ragione, la mia nonna saggia, perché il cibo è il carburante del nostro corpo, lo sappiamo bene, ma è anche altro e di più. Non mangiamo solo per soddisfare lo stimolo della fame, il cibo, lo sappiamo bene, ci nutre, ma ci gratifica, ci consola, ci tranquillizza. Il cibo è piacere, ce lo state scrivendo in tanti, è un'esperienza per i sensi, ma anche un attivatore delle nostre emozioni. Ci sono dei cibi che troviamo particolarmente buoni perché legati a un momento piacevole, a un nostro ricordo, e cibi invece che tendiamo a rifiutare, accantonare, perché legati ad un ricordo non felice. Lo abbiamo anticipato, vogliamo oggi parlare anche del nostro rapporto con il cibo, e in linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Francesco Aquilar, presidente dell'Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva Sociale e anche un nostro esperto del nostro Daily Lab. Sì. Buongiorno professor Aquilar, bentornato. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Intanto, chi visita le pagine del nostro programma è già, ecco, sa già che il professor Aquilar ci ha regalato una batteria di domande per misurare un po' la nostra relazione con il cibo. Se ancora non l'avete fatto, fatevi un giretto e potete chiamare al nostro numero verde 800 24 00 24 per fare una valutazione insieme al professor Aquilar, che comunque risponderà anche sulle nostre pagine Facebook dopo la trasmissione. Professor Aquilar, vogliamo ricordare rapidamente questa batteria di domande? Come no, le domande possono essere dirette e riguardano intanto com'è il vostro rapporto col cibo. Vi sentite amici o nemici del cibo? Mi è venuta un'idea, professor Gnola, vuole farlo con noi questa sorta di batteria di non possiamo chiamarlo test? Possiamo? Possiamo in senso largo. Sì, ecco. Professor Gnola. Si candida a fare, si testa con noi? Sì, sì, mi testo. Vai, tra l'altro siete tutte e due napoletani, quindi ecco. Avete... Professor Aquilar, vada. Allora, com'è il vostro rapporto col cibo? Siete amici o nemici? Gnola. Amico. Secondo, com'è il vostro rapporto con lo specchio? Vi vedete bene o male? Professor Gnola? Piuttosto bene. Ah, bravo, questo mi piace. È molto ottimistica la risposta. Bene. Quanto è importante per voi mangiare sano? Poco, abbastanza o molto? Molto. Perfetto. Ancora, qual è stato il segnale che vi ha indotto a fare una dieta? E qual è stato il segnale che vi ha indotto a smettere di farla, se l'avete fatta? Gnola? Il segnale che mi ha indotto a mettermi a dieta era qualche chilo di troppo, e il segnale che mi ha indotto a smettere è che cominciavo a diventare troppo di cattivo umore. C'è stato finora un momento della vita nel quale avete sentito che il rapporto col cibo era cambiato in meglio. Ce lo raccontate? Sì, soprattutto... L'incontro con un babà. Sì, l'incontro con un babà è avvenuto, direi, in età prescolare. Quindi che fortuna, anche con la sfogliatella. Presto, essendo nato a Napoli ho incontrato subito babà, sfogliatelle, tutte le cose. Ha avuto un imprinting molto precoce, naturalmente. Ovvio. Diciamo che però c'è stato un momento in cui anche il mio rapporto col cibo è diventato più consapevole, senza naturalmente perdere la dimensione del gusto e del piacere. È stato quando ho cominciato a frequentare amici come Carlo Petrini, quindi che il fondatore... mi hanno fatto conoscere anche altre dimensioni del cibo che andavano al di là del gusto e del piacere. Il fondatore di Slow Food, ricordiamolo. È la conoscenza, vedi? È la conoscenza. Che nutre. Ci fa da gancio alla prossima domanda. E ci fa apprezzare anche il cibo. Vedi come sono stata brava, eh? Mamma mia. Vada, professor Aquilar. Ultima domanda. E infine, l'ultima domanda, e questo è il tema dell'Expo Nutrire il Pianeta. Rimanda ad una collaborazione tra tutti gli umani, senza perdenti, sul cibo per tutti. Che emozione vi suscita questo argomento? Siate sinceri. Professor Gnola. Mi suscita molta emozione come individuo e come cittadino, perché penso che sia una delle grandi sfide per il futuro e anche un dovere morale e politico a cui non possiamo sottrarci. Bene. Spero di non essere stato troppo retorico nella risposta. No, è stato... Sentiamo il professor. A me è piaciuto molto, professor Gnola, ma io sono di parte perché io la leggo sempre, sono una sua fan di quelle proprio, una sbandieratrice. Professor Aquilar, come ne esce il mio professor Gnola? Ne esce bene, ovviamente, come una persona che si occupa di studiare, di conoscere nel senso più pieno il rapporto col cibo e i suoi significati. Potrebbe essere una guida anche per le persone che invece purtroppo non hanno la stessa serenità nel rapporto col cibo e con lo specchio, non sono così serene nel modificare in positivo il rapporto col cibo in una determinata fase della vita e sono sensibili al fatto che il tema delle negoziazioni internazionali, almeno sull'argomento del cibo, dovrebbe vederci tutti impegnati in un'azione concreta per tutti gli umani. Intanto sì, stavamo curiosando con Nicoletta tra i messaggi, ne stanno arrivando tanti e ovviamente soprattutto il primo punto del nostro test che suscita grande attrazione, perché quando si chiede alle persone qual è il rapporto con il cibo, naturalmente si vede bianco o nero, diciamo il grigio, l'equilibrato, si fa un po' più fatica a descriverlo. Anna da Pisa ci scrive: ho un brutto rapporto col cibo, sono onnivora ma mangio anche senza fame per golosità. Soprattutto Gabriella: anche il mio è pessimo, ho il terrore di ingrassare. Un altro ascoltatore commentando la frase che diceva Nicoletta: sacco vuoto non sta in piedi, lui dice: anche vero che però il sacco pieno è pesante. Professor Aquilar, insomma, le prime tre che sono arrivate sul primo punto, che cosa ne pensa? E beh, sulla golosità possiamo tutti tenere presente che in certe forme è stato uno dei peccati capitali in qualche modo, e quindi noi potremmo essere compassionevoli verso noi stessi concedendoci delle piccole golosità saltuarie non troppo frequenti, ma godendo questa possibilità non solo della golosità, ma trasformandola anche in un'attività sociale, perché il punto importante è il rapporto sociale del cibo. Non solo a tavola si va a stabilire com'è l'atmosfera della singola famiglia nella storia di vita di ognuno di noi, ma anche nelle occasioni sociali si mediano tutta una serie di relazioni che potrebbero togliere potere alla golosità individuale esclusiva. È vero, anche Marino Niola nel suo libro tocca proprio approfonditamente questo aspetto, ovvero il cibo quando è vissuto un po', come dire, tra virgolette, come penitenza, provoca il risultato di emarginare dalla tavola alcune dimensioni, quella legata al piacere, allo scambio, alla convivialità e alla condivisione, no, professor Niola? Certo, e spesso dividere persone quando diventa tutto questo il cibo, diventa senza arrivare proprio a delle vere e proprie patologie come l'ortoressia, cioè la sindrome dell'appetito corretto, sì, che spinge molto. Un'insana ossessione per il cibo sano. Esattamente, un'ossessione per il cibo sano. Vedo che avete letto benissimo il mio libro. E abbiamo studiato. Ce lo siamo divorati molto meglio di me, fra l'altro. Vuol sapere che non ce lo siamo neanche portate in studio, io l'ho lasciato come al solito sulla scrivania, ma adesso lo vado a riprendere, però sì, lo abbiamo letto molto attentamente, professore. Quindi tornando, casi, io incontro molte, sempre più persone che non accettano inviti a pranzo, a cena, oppure che addirittura arrivano portandosi dietro i loro la schiscetta. Contenitori. Con le loro così, la schiscetta che è difficile cosa... adesso mettere. Guarda, mi ricordo io in certi momenti. Professor Aquilar, è difficile mettere a tavola adesso 6-7 persone? Vero, perché allora vero. C'è il vegetariano, c'è l'intollerante, quindi o magari quello che ha una sensibilità al glutine. No, ma organizzare una cena significa chiederlo prima a tutti. C'è qualcosa che non mangi? Io ormai faccio così. Eh sì, vero? Professor Aquilar, lei che cosa ne pensa? A me piacerebbe sapere dal professor Aquilar, se si sedesse a tavola con un suo paziente, lo metto tra virgolette, che cosa potrebbe imparare dalla relazione, no? Vedendolo a tavola, che cosa guarderebbe? Il modo in cui divora magari la pietanza, come taglia il cibo, se giocherella con non so le bricioline, dove cadrebbe il suo occhio clinico? Ma intanto sull'espressione del volto. Perché l'espressione del volto ci dice moltissimo su qual è il significato reale del nostro comportamento. È chiaro che a volte nella psicoterapia comportamentale si va a mangiare insieme nel caso di alcuni disturbi alimentari, quindi a volte questa cosa è anche possibile farla tecnicamente in termini di condividere un'esperienza che per alcune persone è particolarmente drammatica. E il concetto che diceva prima il professor Niola della dieta in levare in questo momento è particolarmente significativo, perché molte persone stanno escludendo via via un alimento dopo l'altro con l'idea di non contrarre delle malattie o di ridurre la probabilità di avere malattie, e che in alcuni casi può diventare davvero un'ossessione e blocca proprio il significato sociale dello stare insieme. Ecco perché vanno tanto di moda anche i finger food, dove ci sono 10.000 cose da poter mangiare e ognuno sceglie il suo. Cuore e denari. Vade retro, grasso, ti ordino di lasciare questo corpo. È la formula con cui la guru californiana Mary Ascension Solnier esorcizza le cellule adipose dei suoi clienti, a suo dire star hollywoodiane alla ricerca della forma perduta. L'ineffabile Fat Whisperer, la donna che sussurra alla ciccia, dice di entrare in contatto con le membrane cellulari e di scacciarle, come padre Amorth con Satana. Viene il sospetto che la sconcertante terapia con la materia grassa elimini anche quella grigia. Facciamola vedere da uno, però bravo, meno male che abbiamo il professor Aquilar. L'esorcismo alla ciccia non l'avevo mai sentita, ma insomma stamattina abbiamo imparato anche questa. Una situazione che Marino Niola, appunto, nel suo libro Homo Dieteticus, questo viaggio nelle tribù alimentari, paragona ad una specie di guerra di religione che ha i suoi guru, anche un po' finti, ma anche fior fior di testimonial, anche nello Star System. Sentite questa: Gwyneth Paltrow ha una dieta da 300 calorie giornaliere, quindi praticamente due gallette di riso, un bicchiere d'acqua e poco più, E poi noi abbiamo scoperto ieri invece che è stato bacchettato pure Papa Bergoglio, Nicoletta. Sì, è diventato un po' morbidello. Vabbè, ma perché poverino. Si muove magari un po' meno e poi è stato conquistato dalla cucina italiana. Gli piace la pasta, guarda, mi è ancora più simpatico. Esatto, i medici però gli hanno detto, insomma, ne dovrebbe mangiare un po' meno, sua santità, muoversi magari un po' di più, un po' meno vita sedentaria, però lui con questa sua... Guarda, facciamo così, tra poco quando arriva il dottor Ongaro gli chiediamo di suggerirci una dieta per Papa Francesco. Allora, per andare verso la conclusione, Marino, Niola, Papa Francesco non dà tanto retta alle indicazioni che gli vengono suggerite, preferisce questo piatto di pasta praticamente tutti i giorni. C'è anche la tribù di quelli che non seguono i buoni consigli alimentari, che imperversano, ognuno ha la sua. E poi mi veniva anche da ridere da questo ascoltatore che scrive: bella educazione quella di portarsi da mangiare quando invitati. Un'altra tribù ancora abbiamo formato stamattina, Niola. Eh sì, ci sono anche le tribù dei resistenti. Papa Bergoglio, diciamo che fa parte di queste qui, evidentemente. Papa Bergoglio, la bonomia di Papa Bergoglio e anche la gioia della vita che lui trasmette poi testimoniano a favore di questo. E poi c'è anche un altro aspetto, lo dico con grande rispetto ovviamente, la tradizionale disponibilità alla mediazione, allo stare nel mondo dell'ordine gesuitico cui Papa Bergoglio appartiene, che arriva al punto tale appunto da passare per francescani certe volte, no? Che è il massimo dell'astuzia, ripeto, lo dico con rispetto, un gesuita che si fa credere francescano è il massimo, e quindi questo la dice lunga anche sul suo rapporto con il mondo, con i piaceri della vita, anche con i piaceri innocenti come quelli del cibo. E ci sono ovviamente delle persone molto più resistenti di Papa Bergoglio, no? Che arrivano fino a farsi del male pur di resistere ai diktat dietetici, come gli obesi. Gli obesi sono una forma di resistenza estrema che arriva all'autolesionismo. E poi ci sono invece quelli, come dicevate voi prima, come le star, come Gwyneth Paltrow, no? che parlano, che fanno una dieta, dicono almeno di fare una dieta da 300 calorie giornaliere, il che fa somigliare queste persone agli asceti del deserto, non so, a Santa Maria Egiziaca, che mangiava solamente erbe amare e acqua però poi si è trasfigurata naturalmente, è diventata trasparente, come quegli uomini che in alto gradimento la trasmissione di Arbore e Buoncompagni vivevano di profilo, in realtà erano larghi come lame di coltello, come fili d'erba. Adesso vedi, ci ha dato comunque un trucchetto: noi ci mettiamo sempre di profilo, basta che non si veda poi la pancia, perché un po' di panzetta. Allora, chi prendiamo? Allora, abbiamo Tatiana che ci chiama da Arezzo. Esatto. Buongiorno Tatiana. E che si Buongiorno. Candida. Sì, sono toscana, sì. Sì, una toscana verace. Tatiana, verace, sono toscana, in realtà io sono nata in Versilia, però poi per lavoro insomma mi sono trasferita. Comunque la zona già ci piace. Allora, anche per la qualità del cibo, direi. Tatiana, sì. Lei dalla regia ci segnalano che voleva provare a così sottoporsi a questa... batteria di domande, sì, che impropriamente chiamiamo test, del sì, dottor Aquilar, perché sì, cosa l'ha incuriosita? Allora, mi è piaciuto molto il tema di oggi, sì, sono un'ascoltatrice di Radio 24 e diciamo amo tutte le trasmissioni di Radio 24, comunque, perché... Comunque la nostra un po' di più, dai Tatiana, sì, diciamolo, possiamo... Lo ammetta senza pudore. Sì, appunto il tema di oggi l'ho trovato estremamente interessante, ho un passato da vegetariana, legato alla ricerca dell'identità personale, così lo definisco, quindi come dire ho vissuto appieno quello di cui state parlando oggi. Poi di fatto, per motivi legati alla mancanza di ferro, all'anemia, insomma poi ho fatto scelte diverse, oggi sono onnivora e insomma mi sembrava simpatico, ecco, anche questo. È quello questo. Che noi invitiamo. Allora, sicuramente abbiamo il tempo o chiediamo a Tatiana di andare dopo il nostro diario? Allora, Tatiana, dato parte. Che lei ci adora, sì. Allora rimanga con noi, ci sentiamo dopo il GR. Intanto noi dobbiamo salutare teniamo il dottor Aquilar, certo. Il professor Aquilar. Salutiamo Marino Niola, del quale aspettiamo il prossimo libro, naturalmente. Poi ha firmato anche questa mattina la recensione del libro di un grande artista su Repubblica, se non mi ricordo male. Adesso non mi viene in mente quello di vabbè, magari lo dico dopo. Esatto, di Vinicio Capossela, vero Niola? Vinicio Capossela, esatto, sì, infatti avevo il blocco mentale. Detto questo, Niola, grazie per essere stato con noi, alla prossima. Magari grazie nel nostro viaggio di Expo più avanti prosegue, lo reinviteremo. Volentieri. Invece il professor Aquilar resta con noi. Noi vi consigliamo di fare un giretto sulla nostra pagina di andare Facebook, a leggere sì. le domande e candidatevi. Intanto, subito dopo il GR, arriverà anche il nostro dottor Filippo Onga. Ottimo. Quindi diteci che cosa avete eliminato o che cosa avete aggiunto alla vostra dieta. E il dottor Ongaro, insieme al professor Aquilar, vi daranno un po' delle indicazioni. Forse noi togliamo magari degli alimenti e pensiamo che sia solamente una scelta di salute, ma dietro si nasconde magari una relazione non tanto equilibrata con il cibo, chissà mai. Professor Aquilar, potrebbe essere, vero? E certo, come no, ci può essere. Dobbiamo andare a scavare e scavare anche sull'etica della magrezza, che è quello che veniva fuori dal nostro discorso di prima. Alcune persone, tra le quali non Papa Bergoglio, hanno scambiato l'etica reale con l'etica della magrezza. Ne parleremo. Cuore e denari. Sono le 12.09, Deborah. Una pappa al pomodoro ci starebbe. Ci starebbe proprio alla perfezione, direi. A un mese dall'Expo abbiamo deciso insieme a Deborah di tornare a parlare di alimentazione e certo. di nutrizione. Abbiamo parlato di tribù alimentari insieme sì. al professor Niola. Vi siete riconosciuti? Chiamateci. Di mode anche un po', no? Perché pure quelle ogni tanto, insomma, perdiamo un po' di vista quello che è il nostro stile alimentare per inseguire le tendenze magari anche dello star system hollywoodiano, che non ci appartiene più di tanto. Per direi la verità, di no, eh? No? In linea con noi abbiamo il dottor Aquilar, il professor Aquilar. Professore, eccomi. Pronto? Abbiamo Siamo Tatiana. Pronti per le domande. Perché? Perché Tatiana prima del GR ci ha chiamato perché sì. vuole sottoporsi a questa batteria di domande che il professor Aquilar ha proprio scritto per noi, ci ha regalato sulle nostre pagine, quindi andate sul sito di Radio 24, cercate consulto. Il cuore denari e Tatiana si offre volontario. Fatela anche voi, tra poco parleremo con il prossimo ospite perché cercheremo di capire se questi cambiamenti nel nostro stile alimentare, molti di voi ce lo stanno scrivendo, eliminato la pasta, ho tolto lo zucchero, ho aggiunto i semi, producono benessere, ma avremo naturalmente anche la lettura del professor Aquilar. Tatiana, è pronta? Sì, sì, ci sono. Allora, professor Aquilar, vada. È molto interessante quello che dice Tatiana, perché racconta un cambiamento e soprattutto è bello il fatto che lei nota come il cibo sia stato parte per lei della ricerca dell'identità personale. Che non è soltanto sul corpo e quindi sul risultato poi del nostro ingerire cibo, ma è proprio per alcune persone in alcune fasi della vita e che l'identità si costruisce anche attraverso le proprie scelte alimentari. E naturalmente rispetto alle diverse fasi della vita, Tatiana ha passato prima una fase e poi un'altra e mi sembra una persona attenta a questo sviluppo. Possiamo imparare da lei tutti noi. Ottimo. Grazie. Tatiana, ma sembra se l'aspettava? Troppo, cioè, guardi un po' che promozione che le ha fatto sul campo. Allora, professor Aquilar, quindi iniziamo con la nostra batteria di domande. Sì. Vogliamo ripeterle? Le ripetiamo rapidamente chiedendo, sì, sì. Tanto Tatiana le conosce e quindi professore. Vada. Com'è il vostro rapporto col cibo? Siete amici o nemici? Amici. Perfetto. Com'è il vostro rapporto con lo specchio? Vedete bene o male? Direi a 40 anni mi sento soddisfatta. Perfetto. E quanto è importante per lei mangiare sano? Poco, abbastanza o molto? È molto importante. E qual è stato il segnale che l'ha indotta a fare una dieta, se c'è stata? E qual è stato il segnale che invece l'ha indotta a smettere di farla? Allora, il segnale è stato appunto un peso eccessivo, soprattutto dopo la seconda gravidanza. Il segnale appunto che invece mi ha fatto poi appunto smettere è stato insomma capire che ero ritornata nel peso giusto, adeguato, e andare oltre sarebbe stato deleterio per la salute. Perfetto, c'è stato finora un momento della vita nel quale lei ha sentito che il rapporto col cibo era cambiato in meglio? Ce lo racconta? Sì, di fatto è stato appunto insomma nella mia crescita personale diventare madre mi ha permesso di diventare molto più consapevole, più flessibile. Certo. Sì, esatto, più consapevole e più flessibile, sì. E arriviamo poi al tema dell'Expo? Sì, Nutrire il pianeta rimanda ad una collaborazione tra tutti gli umani senza perdenti sul cibo per tutti. Che emozione le suscita questo argomento? Sia sincera. L'emozione senso di responsabilità, perché oggi ancora non siamo arrivati al punto in cui tutti hanno lo stesso accesso al cibo, la stessa possibilità, e in Occidente siamo nella sovrabbondanza, per cui sì, lo sento come una responsabilità, un impegno. Da trasmettere magari anche ai propri figli, visto che ci ha detto che anche sì, mamma, no? Sì, infatti, penso che ciascuno, lo debba sentire. È una straordinaria occasione. Professor Aquilar, come esce il profilo di Tatiana? Si era capito già da prima che esce con molti buoni complimenti, perché ha un rapporto col cibo, con l'alimentazione e col corpo molto positivo. Due cose segnalerei. La prima, la competenza contestuale, di cui parlo anche nel Daily Lab che c'è nel blog di Radio 24, perché Tatiana ha capito come la gravidanza era un periodo particolare, non se ne è allarmata ma l'ha utilizzata per rimodulare il proprio rapporto col cibo. E il secondo punto, la gerarchia di valori, quindi la competenza valoriale, e nel momento in cui si diventa madre si capisce che non possiamo fare un'etica della magrezza, ma che dobbiamo fare un'etica dei valori importanti nella vita, come per esempio quello di occuparci dei nostri figli. La sensibilità sociale al tema della responsabilità per avere cibo per tutti completa il quadro come la ciliegina sulla cassatina napoletana. A proposito, 800 24 00 24, Tatiana, e quindi è già profilata, ma se voi volete intervenire, se volete andare sulla nostra pagina, il professor Aquilar ci ha promesso che risponderà ai vostri interventi. A proposito di Expo ha una mascotte. Sì. È formata in stile Arcimboldo, è formata da 11 mascottine. Allora, intanto 800 24 00 24, lanciamo diteci, anche il quizzettino sul nome. La mascotte si chiama Deborah? Foodie. Voi dovete dirci da che cosa è composta. Sono 11 mascottine che creano proprio l'immagine di Foodie. Chiamateci e noi come sempre apriremo la libreria di Cuore Denari. Ma intanto adesso andiamo a salutare il nostro dottor Filippo Ongaro. Buongiorno dottor Ongaro. Buongiorno a tutti voi. Allora, lei non sa quanti messaggi sono già arrivati? I suoi libri, i nostri ascoltatori li conoscono a memoria, ci raccontano di cambiamenti che lei proprio ha accompagnato, trasformando la loro diete un pochino così, troppo ricche, troppo squilibrate, in uno stile alimentare che dà molta soddisfazione, sia in termini di benessere, sia in termini di peso, di linea e anche di energia. Questo è un po' il potere di uno stile alimentare adeguato. Beh, senza dubbio dovrebbe essere l'obiettivo, nel senso che l'alimentazione, se interpretata nel modo corretto, è in sostanza l'essenza della vita e dovrebbe permettere proprio questo, dovrebbe permettere in un certo senso al nostro organismo di esprimere il meglio di sé e di allontanare tutte le cose un po' brutte che ci fanno paura il più in là possibile, insomma, o farle sparire del tutto. Dottor Ongaro, nella prima parte della trasmissione insieme a Deborah abbiamo incontrato il professor Gnola, che sottolineava che in questi ultimi anni la nostra dieta, per effetto delle mode, anche per l'abbondanza, si sta progressivamente impoverendo. Ci sono tante persone che eliminano dalla loro dieta alcuni alimenti o gruppi di alimenti, non sempre motivati da delle scelte cliniche. Io volevo leggere questa situazione sia da un profilo psicologico, e quindi chiedo aiuto al professor Aquilar, ma naturalmente anche con il dottor Ongaro, per capire che cosa succede se nella nostra dieta eliminiamo di nostra iniziativa, senza un criterio, alcuni alimenti. Professor Aquilar, iniziamo da lei. Che cosa può significare questo bisogno di ridurre e di eliminare alcuni gruppi alimentari dalla nostra dieta? Che cosa nasconde questa sorta di mortificazione? Esatto, può nascondere una mortificazione della carne e in qualche modo una forma nascosta di ortoressia, cioè quel disturbo alimentare a causa del quale le persone, con il pretesto di un'alimentazione sana, sostanzialmente riducono troppo drasticamente quello che introducono nel loro corpo, con questa idea quasi di etica della magrezza e di limitazione continua, riducendo di conseguenza anche le occasioni sociali di scambio e di comunicazione. E da questo punto di vista tutto questo processo socialmente abbastanza diffuso può essere pericoloso. Quindi il primo suggerimento è di non avventurarsi da soli senza il parere di un esperto in queste modificazioni alimentari. Dottor Aquilar, dottor Ongaro, vogliamo allora aiutare i nostri ascoltatori a capire quali limitazioni possono tradursi in danno o pericolo per la nostra salute? Ma insomma, io credo che sia un discorso molto complesso questo, che si fa anche fatica a riassumere in poco tempo, perché se da un lato proveniamo da un periodo in cui ci sono stati ovviamente molti eccessi che hanno comportato dei pericoli concreti e un incrementarsi di patologie molto evidente oggi, dall'altro certamente il passaggio a un'eliminazione selettiva di intere categorie di alimenti o una restrizione eccessiva dell'alimentazione non è la strategia più giusta. Io credo che bisognerebbe parlare di educazione alimentare in maniera molto più strutturata, seria e a lungo termine, per far capire queste cose bene. È evidente che se io elimino delle intere categorie, facciamo qualche esempio. L'esempio più logico che viene in mente in questo momento è a carico delle proteine, per esempio, che è una discussione che va avanti da tantissimo tempo, con dati che si fanno un po' fatica a leggere nella maniera più corretta possibile, ma il rischio concreto di togliere eccessivamente l'introito di proteine esiste. Ma si potrebbe anche fare un altro esempio, che è esattamente opposto: il rischio di togliere completamente i carboidrati, per esempio, di cui moltissime persone si privano nell'ottica di una dieta dimagrante. I carboidrati intesi come pasta, cereali, quelli provenienti dai cereali. Non soltanto, diciamo, i dolci, dove uno insomma deve capire il ruolo appunto sociale e psicologico del dolce, ma la necessità metabolica di un dolce in realtà non esiste, quindi è una questione effettivamente che si può abbastanza restringere nella propria alimentazione. Ma invece i carboidrati non è così semplice, e la loro eliminazione totale non è necessariamente la cosa più giusta a lungo termine, perché può portare a degli squilibri. Un altro esempio, sempre in ottica diversa, è invece più subdolo, perché tutti sappiamo quanto sia importante mangiare verdura, mangiare tanta, ne parliamo tutti, però poi fai fatica a trovare un bambino che mangi 5-6 porzioni di verdura al giorno. Quindi io credo purtroppo che siamo un pochino tutti vittime di tante etichette e di tanti discorsi, e che però poi questi discorsi molto spesso nella pratica quotidiana si perdono, oppure diventano... Si fa fatica a metterli poi in pratica. Si fa molta fatica a metterli in pratica, oppure vengono messi in pratica in maniera molto, come posso dire, estrema e settoriale, senza aver compreso che quando si parla di alimentazione si deve parlare di alimentazione nel suo senso complessivo, certo, e non un alimento o un macronutriente. Quindi è un discorso un po' più complesso. Allora, se avete bisogno di aiuto, 800 24 00 24, provate anche a raccontarci quali sono le mascottine che compongono Foodie, la nostra mascotte. Già chi si sta candidando a rispondere. Sono 11, quindi Maurizio da Padova e Giampiero da Lucca, benvenuti a tutte e due. Maurizio ha la precedenza perché è lì che aspetta da un po'. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a tutti. Io telefonavo per dire che 3 anni fa ho letto il libro del dottor Ongaro, Mangia che ti passa, e ho abbracciato, diciamo, questo stile alimentare. E per farlo in breve, ho eliminato non del tutto lo zucchero, quello da caffè, nel senso non del tutto, perché quando mi trovo con i familiari qualche festa ricorrente, ecco, mangio anch'io i dolci, ecco, per non farla sociale. Però è una cosa, ecco, molto così rara. Ecco. E poi ho eliminato, come scriveva anche il dottor Ongaro nel libro, diciamo i formaggi, il latte e i formaggi di derivazione da mucche, preferendo, ecco, quelli capra o pecora. E ho visto che avevo anche dei problemi, diciamo, di dermatite cronica, e sono spariti. Adesso non lo so, è stato il discorso del latte. Sarà stato il dottor Ongaro? Non sappiamo. Comunque sta meglio Maurizio. E noi siamo contente. Dottor Ongaro, una bella responsabilità. Sì, allora, premesso appunto che rimane valido quello che dicevamo prima, e quindi che si possono con dei libri dare dei consigli generali basati in sostanza su le evidenze scientifiche in cui uno crede, ma poi insomma bisogna anche verificare il caso per caso. Credo che quello che stava dicendo questo ascoltatore sia una cosa positiva, nella misura in cui ha ottenuto dei benefici e ha saputo interpretare queste, tra virgolette, eliminazioni in realtà più come delle sostituzioni, insomma, se vogliamo, no? Premesso appunto che lo zucchero rimane in qualche modo un'eccezione che ci si può concedere ogni tanto, ma non ha una grande necessità di esserci nella nostra alimentazione, le altre sono più delle sostituzioni attente. Allora io posso anche abbracciare l'idea di ridurre il quantitativo di glutine, per esempio, ma non andrò necessariamente a togliere tutti i cereali. Certo. Potrò scegliere, per esempio, i cereali senza glutine. Come abbiamo detto tante volte anche in questa trasmissione, la logica deve essere quella di un'attenta sostituzione di ciò che ha un potenziale di eventualmente crearci qualche problema con qualcos'altro che ha il potenziale di risolvercelo. Ma la soluzione del togliere non è necessariamente quella corretta, e giustamente anche l'ascoltatore ha detto ogni tanto, quando c'è la festa e ci sono i familiari, mi concedo anche il dolce, ma certo è logico che sia così. E fa bene. Professor Aquilar, cambiare stile alimentare è un cambiamento importante. Ci sono persone che hanno bisogno di avere un click, no? Può essere un libro, può essere l'incontro, può essere un collega, a volte, e ci auguriamo in alcuni casi, insomma, di non fare diete troppo fai da te, perché la salute può essere messa a rischio. Abbiamo bisogno comunque delle guide per fare questo passaggio. Come legge questa cosa, professor Aquilar? Certamente abbiamo bisogno delle guide, e come diceva il dottor Ongaro, dobbiamo contemperare le prove scientifiche, nel senso che in questo momento ci sono a disposizione tante informazioni che vanno armonizzate. Ad esempio, si possono trovare delle cose, dei tipi di alimentazione che riducono la probabilità di insorgenza del cancro in una parte del corpo, però involontariamente possono aumentarla in un'altra parte del corpo. Ecco perché al primo posto noi dobbiamo avere la consapevolezza del nostro rapporto col cibo. Dobbiamo cercare di domandarci e di interrogarci su com'è quella sensazione e, se possibile, di parlarne con un esperto dal punto di vista dietetico e nutrizionale, e con un esperto dal punto di vista psicologico e psicoterapeutico. Non facciamo molto da soli nella vita. Se chiediamo a chi ne sa più di noi in alcuni settori, possiamo avere un rapporto equilibrato e goderci la gioia sociale e la salute alimentare che ne consegue. Andrea ci chiama da Brescia. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'intervento. Guardi, mi ha risposto un po' già alla mia domanda con questa affermazione del dottor Ongaro, nel senso che ultimamente, facendo meno attività fisica, io ho smesso di giocare a calcio da qualche anno, ho un rapporto col cibo un pochino più contrastato, mettiamola così. Conflittuale. Nel senso, insomma, che magari riduco un po' i carboidrati quando non faccio attività fisica. È un improvvisatore, direbbe il professor Gnola. Questa è la tribù a cui lei appartiene. Sono un improvvisatore di tutto punto proprio. Però vedo che ho un rapporto col cibo peggiore rispetto a prima. Ecco. Vada a rispondere alla batteria del che ci ha proposto il professor. Oppure riprende a fare sport, che magari risolve un po' di problemi. Faccio ancora sport, faccio tennis qualche volta durante la settimana e un po' di corsa, però vedo che faccio più fatica a stare. Andrea, io la soluzione ce l'ho, perché io lo chiamo il piatto del dottor Ongaro. In realtà lui non vuole che io lo chiami così, ma ci fa visualizzare esattamente come noi dobbiamo organizzare un po' la nostra dieta e mettere in equilibrio i vari nutrienti. Dottor Ongaro, ci regali il piatto? Sì, allora, il piatto ha degli autori molto più prestigiosi di me rimane sono l'Università di Harvard, e giustamente, come diceva il professor Aquila, teniamoci quello che la scienza ci può dare, teniamocelo stretto, e qui abbiamo l'impostazione di un piatto considerato un modello salutare che è composto al 50%, proprio visivamente, il 50% sì, del piatto da verdure, l'altro 50% lo ridividiamo in due e un angolo lo dedichiamo alle proteine, lo facciamo a rotazione a seconda dei nostri gusti, che possono essere le carni magre, il pesce in prevalenza, i legumi. E l'altro 25% i cereali. Ai cereali integrali. No, le uova possiamo mettercele. Ah, sì, no, io chiedevo, sì, infatti. Nelle proteine ce le mettiamo, un ovetto. Allora, abbiamo Rita dalla provincia di Milano, prima di salutarci. Ah, sì, che si candida a rispondere, quali sono i fruttini e le verdurine che compongono Foodie. Rita, benvenuta. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Lei l'avrà visto anche da qualche parte, insomma, il disegno di Foodie e magari... Sì, siccome frequento l'Università del Tempo Libero di Gorgonzola, hanno fatto una lezione. Hai visto? È una pubblicazione, quindi ce l'ho qua da leggere. Ci dica. Aglio. Sì. Anguria. Sì. Arancia. Sì. Banana. Sì. Zucco. Sì. Mais blu. Vai. Mango, mela, melagrana, pera, ravanelli. Ottimo. Perfetto, tutti i magnifici 11 che compongono, sì, Foodie. Sì. Grazie, e grazie. Sono i nomi propri, però so che non c'è tempo. Sì, c'è Guagliola, aglio, Arabella l'arancia, Josephine la banana, li diremo un'altra volta, chissà quante puntate su Expo siamo Rita, pronti a fare. Anzi, non vogliamo anticipare troppo. No. Però allora, ci sono delle belle sorprese per voi in arrivo. A Rita un libro di Cuore Denari, sarà contattata dalla nostra redazione. Dobbiamo salutare, salutiamo il dottor Ongaro e il professor Aquilar. Cuore e denari.